Radio 24 presenta Il Sabato del Villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. E ci siamo, abbiamo fatto un'ora insieme con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio, e adesso facciamo un'ora di speciale Sabato il Villaggio. Quanto ti fa strano che non sia la tua sigla? Esatto, la sigla mi fa molto molto strano, non dobbiamo dire gli account perché è un'altra cosa. Ma sì, dai, chiocciola Marta Cagnola, chiocciola di Bellasio, ISTV. Hashtag mi piace ISTV. Liberi consigli. Ti piace liberi consigli, sì, per il fine settimana? E in realtà questa liberi settimana, consigli per Expo, beh sì, questa settimana diamo dei liberi consigli per Expo, perché noi siamo qua nel padiglione. Devo dire che tutto sommato non fa così tanto caldo. No, stiamo bene, siamo però, ti nel avviso, padiglione Cibus Italia di Federalimentare, dentro Expo Milano 2015. Adesso sapremo un sacco di cose che avremmo voluto sapere su Expo, non abbiamo mai osato chiedere. Esatto, e ti avviso, nonostante il mio secondo lavoro, io farò l'avvocato del diavolo, visto che lavoro con la Lepera, nel senso che siccome noi abbiamo come ospite il re degli Expo ottimisti. Sì. Sai chi è? Sei preparato? Aspetta, vorrei fare ce l'hai davanti? No, ma vorrei fare proprio ma siamo alla radio, Ma l'hanno letto. Allora, vorrei iniziare continuando a festeggiare il 4 luglio. Come? Continuiamo a festeggiare il 4 luglio. Dai, volevo entrare un po' in clima, un po' di musica, un po' di facciamo un po' di clima 4 luglio per iniziare il nostro Sabato del Villaggio, speciale maniera... Expo. Eccola qua, un po' di America, un po' di America. Questa era Living in America, era bellissima. Volevo entrare un po' in... Allora, tu non sei abituato al Sabato del Villaggio. Questo te l'ho detto, no? È un provino. Se seguo. Sei bravo, ti tengo al Sabato del Villaggio con me anche l'anno prossimo. Speciale Sabato del Villaggio, di solito a quest'ora, o meglio nel primo blocco del Sabato del Villaggio, diamo sempre il sommario di quello di cui parleremo, i temi della prima ora. Intanto è un'ora sola, ma soprattutto parleremo tanto di Expo, e quindi io vi dico, se avete domande su quello che potete fare, quello che non potete fare, quello che potete vedere, non potete vedere a Expo, potete benissimo mandarci un SMS al 349-238-6666, perché è sempre il nostro numero per gli SMS, ma anche mandarci un tweet, basta menzionare Daniele Bellasio, chiocciola di Bellasio, basta menzionare me, chiocciola Marta Cagnola, anche perché lo ha un po' anticipato Daniele, abbiamo il più grande esperto di Expo, cioè la persona che conosce Expo palmo a palmo, millimetro per millimetro, anzi dorme visto qui, che è l'unico, è l'unico che sai, come al concerto di Jovanotti che c'era la bolla, sì, e... lui ha una tendopoli sua da mesi, una bolla in mezzo, controlla. Allora, lui è l'uomo che non dorme mai, perché a qualsiasi ora della notte, del mattino, sabato, domenica, apri Twitter, sta twittando su Expo. Sì. Il suo account è Secolo Urbano, e poi gli chiederò perché, bello, perché sono mesi che voglio sapere perché lui su Twitter non è Giacomo Biraghi. Buonasera Giacomo. Eccoci qua, ciao. Ciao. Allora, intanto, quindi, Secolo Urbano vuole sapere subito questa cosa. Perché io in realtà mi piace giocare al Lego anche da piccolo, e sono un amante delle città e mi occupo di città. Expo è un caso degli ultimi 3 anni, ma io mi sono sempre occupato di Milano. Ah, ecco, quindi per questo nella tua bio sei Milano ottimista, perché per mesi ci hai insegnato a essere Expo ottimisti. Questa cosa è serissima, sai, fior di economisti hanno teorizzato, ne abbiamo parlato, che il prossimo, questo che sta iniziando, è il secolo delle città. È il secolo delle città, delle grandi città. È Milano. Anche nell'enciclica di Papa Francesco c'è per esempio questa attenzione verso il fatto che il futuro del pianeta si costruisce anche nella consapevolezza che hanno le città di dover essere sostenibili. Allora facciamo così, se voi avete delle domande, perché io ne ho tante di curiosità anch'io? Di si può anche tu mandare delle domande per sapere cosa si può fare a Expo, cosa non si può fare a Expo. Sì. Allora noi abbiamo Giacomo che può secondo me rispondere a tutte le vostre domande, secondo io me anche Daniele Bellasio è abbastanza preparato perché diciamolo che do una mano a uno dei padiglioni che ci sono a Expo, esatto, padiglione della Santa tanta sede, ecco, qui per questo tuo secondo lavoro, ecco, e quindi noi possiamo parlare di tutti i padiglioni, sì, tranne quello della Santa, esatto, Sede, perché quello tu non, no, vuoi, quindi sono tutti e due bellissimi, anche l'edicola della Caritas, ma non ne parliamo, ma non ne parliamo perché c'è il conflitto di interessi. Quindi facciamo una cosa, voi preparatevi le vostre domande, perché io mi sono già preparata le mie, sono le 18:14, se ce le dite quelli prima, che stanno, non ci prepariamo le, no, tutto a sorpresa, li guardo solo io i messaggi e poi ve li dico. Sono le 18:14, tutti quelli che stanno arrivando in Expo ad esempio a Milano, oppure che sono, vabbè, in giro per l'Italia, visto che comunque è sabato sera, chissà che cose bellissime farete questo sabato sera, se ci state andando in macchina, queste sono tutte le indicazioni per il traffico. Ore 18:15, ci ritroviamo tra pochissimo. Il sabato del villaggio. Rieccoci insieme con questo sabato del villaggio speciale Expo. Io ho ascoltato questa mattina su Radio 24 un servizio molto molto carino realizzato dalla bravissima Livia Zancaner, che ieri è andata un po' a intervistare le persone in giro per Expo, che le hanno detto un po' cosa pensavano, quali erano le loro prime impressioni appunto dalle loro passeggiate in giro per Expo, ma anche chi a Expo lavora, che quindi ha un po' raccontato quello che succede in questo periodo. Quindi io ascolterei qualche secondo di questo servizio di Livia Zancaner proprio dal giornale radio di Radio 24. Eccolo qua. Saranno i 5 euro che si pagano la sera? Sarà la novità o l'opportunità di conoscere gente che arriva da tutto il mondo? Il fatto è che Expo sta diventando la piazza alternativa del divertimento per i giovani milanesi e non solo. Soprattutto nel weekend c'è moltissima gente. La sera, il sabato soprattutto, è pieno di ragazzi. Così ci spiega una ragazza. Lei e i suoi amici si danno appuntamento nei tanti baretti che mettono musica fino a mezzanotte. Le feste sono tante, ci racconta un giovane che lavora in un bar. Nel weekend siamo al massimo dei clienti, credo. Purtroppo per il visitatore è stato permesso di rimanere solo fino a mezzanotte, mentre per chi lavora qui si organizzano staff party. Questa cosa dello staff party mi ha molto divertito, perché vuol dire che comunque ci sono moltissimi giovani che lavorano e che si divertono. Allora, primo messaggio al 349-238-6666. Francesca vuole sapere: a che ora apre al mattino Expo? Beh, è vero. E da che cancello è meglio entrare per il padiglione zero? Allora, apre alle 10, si può arrivare una mezz'oretta prima, consiglio, e bisogna entrare dall'ingresso Triulza o Fiorenza, insomma, da dove arriva il metro. Da dove arriva il metro? Hanno parlato i ragazzi della sera, del sabato. Sì. Effettivamente noi vediamo, anche tu hai twittato tantissime foto di pienoni per arrivare la sera, per venire a festeggiare l'aperitivo, la cena. È uno dei momenti più belli e più frequentati di Expo? Ma in realtà non rappresenta il numero maggiore di persone, cioè comunque la giornata è sempre molto piena, perché l'obiettivo principale di chi va a vedere un Expo è vedere quanti più padiglioni possibile. Adesso c'è il passaporto, che sì, è questo gadget straordinario per cui c'è la gara a farsi fare i timbri sul passaporto alla fine della visita di ogni padiglione. Quindi l'unico obiettivo che i visitatori hanno è vedere i padiglioni. Poi, certo, questa entrata serale dalle 19 a 5 euro facilita anche una fruizione più lato ristoranti e più lato architettura complessiva, con il classicone dell'albero della vita verso le 10:30. Quanto tempo secondo te ci vuole? Allora, per vedere tutto Expo non ho idea, non so se avete provato a quantificare. Beh, secondo quanto me tempo. Nemmeno Giacomo ce la fa. Cioè, sono 153 attrazioni, padiglioni, sì, okay? C'è un recordman che ne ha visti 25 in un giorno. Quindi diciamo in un giorno, 7-8 giorni pieni, intensi. Accidenti. Però è per collezionisti, insomma, non è certo obbligatorio visitare tutto Expo. Secondo te le persone bambini, si fanno anche quello, mi piacerebbe tanto sapere, i bimbi. E poi ho un'altra curiosità. Dove portare i bambini subito? Tu sì, dove porteresti i bimbi? Dove e da che età? Allora, secondo me dai 3 anni in su è molto adeguato. Ah, però sì, 3. Dai 3 ai 14. Secondo me bisogna partire dal Kuwait, che ha come il padiglione in città di Expo alla Triennale una sezione dedicata ai bambini, cioè alta 1,10 m. Quindi, no, stupendo. Certo, c'è un, diciamo, un limite fisico per tutti coloro che non sono bambini, e quindi c'è tutta una sezione dedicata e fruibile solo da costoro. Bellissimo. E poi il Brasile, che è un grande classicone. Beh, sì, però forse si conosce poco il significato di questa grande rete, sapete, su cui si può saltare percorrere. Il significato è che alla fine siamo tutto il mondo interconnesso, quindi se qualcuno su questa rete fa un po' il pazzo, saltella un po' troppo, anche coloro che intorno non sono con lui cadono e ne hanno comunque una conseguenza. Quindi come questo mondo tutto interconnesso che fisicamente si può verificare andando lì. E poi è molto bello, secondo me, sicuramente gli Emirati Arabi Uniti, sapete che è il chi ci darà il cambio nel 2020, sì. E hanno fatto questo incredibile padiglione che vede protagonista una bambina, Sara, di 13 anni, la quale racconta come in un paese desertico sono riusciti a tirar fuori comunque una ricchezza. C'è da dire tra l'altro, posso dire che tutti quelli che si stanno lamentando che oggi fa caldo, in questi giorni fa caldo a Expo, quando sarà negli Emirati Arabi, venite, vi preparate. Vedete perché questo poi, che è meglio. Dico una cosa che sono in pochi, sarà d'inverno. Però non so quanto è freschino. Comunque la cosa bella per i bambini, che anche il padiglione zero, che per certi versi viene visto come il padiglione, diciamo, più intellettuale di Expo, perché doveva raccontare la storia complessiva dell'esposizione universale, in realtà i bambini piace moltissimo. Rocco, per esempio, mio figlio che ha 7 anni, ha guardato tutta la storia, si è fermato nella prima sala perché c'è questa storia di un bambino in uno schermo enorme. È un film di Martone, un famoso bellissimo regista. Esatto, che Marta conosce benissimo. E anche il padiglione zero, quindi il padiglione per certi versi che aveva il rischio di essere più concettuale, è riuscito a raccontare una storia anche ai bambini. Ma perché? Diamo il segreto dei padiglioni di successo. Diciamo così, me lo segno. Esatto. Potevi dirmelo 2 mesi fa quando iniziava. No, adesso ci sono quelli degli Emirati Arabi Uniti che sono lì a prendere appunti. Esatto. Il segreto dei padiglioni. Rullo di tamburi. Rullo di tamburi. Expo è un parco a tema, come anche si diceva prima. Quindi i padiglioni funzionano quando generano 3 effetti insieme. Il primo è raccontare una singola cosa, quindi la cosa importante un'idea. È non avere un approccio museale, non avere un approccio business dettagliato, dare un unico messaggio. Le api della Gran Bretagna, la foresta dell'Austria, ok? Il secondo segreto è dirlo con delle emozioni, cioè non con qualcosa di scritto o di spiegato, ma attraverso i sensi. Quindi ancora una volta riprendiamo l'Austria, il singolo messaggio è respirare e viene declinato non con un papiro che descrive questo tema, ma con la presenza fisica che si sente di un bosco che diminuisce la temperatura. Terzo, il cosiddetto effetto Stargate, che è quello in realtà più importante. Stargate è un film, non so se vi ricordate, un po' fantascienza, dove c'era questo portale che permetteva in un attimo di andare in un altro pianeta in un secondo. Ecco, deve succedere così. Un padiglione ha successo quando in un secondo ti riesce a portare, dopo la coda, in un altro luogo, in un altro tempo. Il caso più eclatante, ancora una volta, dopo l'Austria, è certamente il Bahrain, dove ci può essere caldo, confusione, ci può essere grande, come dire, inquinamento luminoso di tanti stimoli che questo grande condominio di Expo genera, ma poi lì si entra in un'oasi che in un modo minimale, e che vi invito a vedere, ti porta in un altro luogo, in un altro tempo, in un secondo. Allora alla fine l'effetto wow, che è quello che devono generare i padiglioni, si genera solo se sei molto chiaro, semplice, esperienziale e riesci a portare la gente da un'altra parte. Allora, abbiamo parlato di bambini, io invece sono molto sensibile al tema degli anziani, perché in tanti mi hanno chiesto, sono tanti e mi hanno chiesto in tanti, ma bisogna camminare tanto, si fa fatica, possiamo venire anche noi che abbiamo, cioè io abito in un palazzo con tante persone anziane e mi chiedono, ma sei stata a Expo, com'è? Ma io chissà se posso andare, cammino, c'è tanto... Ma io ho sempre detto che ci sono 3 pubblici principali di Expo, che un evento popolare. Gli anziani, io li chiamo gli umarell, sono in milanese quelli che vanno a vedere i cantieri ogni giorno, le signore, che noi duriamo meno come uomini, Daniele, purtroppo, quindi rimangono libere a 60 anni e quindi hanno molto tempo, e le scuole. Allora, quindi tutti questi 3 target sono i benvenuti, e gli anziani non si devono preoccupare perché va molto di moda affittarsi la famosa macchinetta. Sapete che si può affittare a 25 euro una macchinetta che ti permette di muoverti e alcuni padiglioni. Ma è quella da singolo? Sì. Ah, quella rossa. Assolutamente, che è quella lì. Alla Cascina Triulza si affitta, 25 euro, e la stanno affittando tantissimi ragazzi per fare i famosi... Per divertirsi, certo, diciamo. I famosi go-kart nel decumano, sì. Le gare nel decumano. Vediamo chi arriva prima da Azerbaigian a Kuwait. Ma tantissimi anziani, tra l'altro, stanno nascendo delle mitologie. C'è un gruppo su Facebook che è autonomo ed è il più seguito, si chiama Expo Consigli per gli Utenti. 20.000 persone si scambiano, sì, istantaneamente qualsiasi tipo di informazione. E stanno circolando queste due trucchi che sono, sembra che riesca a essere possibile saltare la coda per chi ha un passeggino e per chi è su queste famose macchinette rosse. Quindi c'è questa caccia, leggenda metropolitana. Ma, no, diciamo, molti, sì, padiglioni nel momento in cui ha un passeggino con un bambino, certo, o in cui da persona un po' più anziana sei sulla macchinetta rossa, salti la coda. Quindi c'è grande ricerca di questi metodi. Sapete, il Giappone, gli Emirati, il Brasile, dove c'è, perché tanta con i padiglioni si fa tanto, con il Giappone forse quello con la... però appunto magari poi tanta coda significa quanto? Allora, e al Giappone anche un'oretta. Un'oretta, ci sono le famose tre ore del Padiglione Italia, talvolta. Però io ho sempre raccontato che alla fine, abbiamo sempre detto che nei parchi a tema le attrazioni alla fine si compongono di tre cose: una coda, quindi è parte naturale dell'esperienza, una parte di... Perché si parla. Certo, perché è democratica la coda. Perché c'è la coda? Perché se no c'è un'altra modalità: o prenotare prima, come fa la Svizzera, o far pagare, come fanno alcuni parchi divertimento. In entrambi i casi si dà la possibilità a meno persone di poterlo vedere, o comunque non a tutti quelli che in quel momento, anche facendo due ore di coda, democraticamente possono entrare. Però a volte fare la coda significa anche vedere meglio il padiglione, perché poi all'interno hai più tempo e più consapevole la visita. Quindi ci sono pro e contro anche nel fare la coda. A proposito di coda, no, volevo solo chiedere una cosa, Marco. Visto che hai detto prenotare, in quali padiglioni si prenota? Sì, perché allora, così uno lo sa prima. Sì. Diciamo che alla fine l'unico che ha deciso questa modalità è la Svizzera, perché ha un ascensore che permette di salire alle famose torri di questo supermarket, dove tutto è gratis ma si possono comprare solo quattro cose: l'acqua, le mele, il caffè, e quindi loro hanno deciso di mettere questo biglietto, e anche online si può prenotare con un'ora specifica. Tutti gli altri invece hanno diverse altre modalità. Il Kazakistan ti fa ascoltare delle bellissime musiche pop kazake durante la coda, ecco, bellissime. Tutto il giorno, anche la sera. Gli Stati Uniti, come è stato descritto prima dal responsabile, è senza coda, perché non ha una parte di esperienza, ma è percorribile tutto direttamente. Altri, come il Giappone, si diceva, mettono fuori molto precisamente l'attesa. Non sarebbero giapponesi, sono giapponesi. Quindi è un condominio Expo, questo bisogna sempre ricordarsi. Non c'è una regola unica, non c'è un messaggio unico, ma c'è una polifonia di voci e di attori autonomi. Beh, straordinario. Poi diamo consigli anche sulle cose un po' più critiche. Sì, poi sfruculiamo un po'. Tra poco, perché sono le 18:29, sì? Abbiamo una brevissima pausa, poi ci troviamo ancora insieme con questo speciale Expo del Sabato del Villaggio. A tra pochissimo. Il Sabato del Villaggio. Eccoci ancora insieme con la seconda parte. Sì, c'era un dibattito durante la pubblicità, sì, perché è arrivato un altro ospite del nostro Sabato del Villaggio, la speciale Expo. Sì, non è proprio un ospite, perché c'è sempre, è un co-conduttore del Sabato del Villaggio, e c'è sempre una musica per introdurre questo. Sentiamo la musica. Sentiamo cosa ha scelto oggi Marta per Enrico Pagliarini. 9 settimane e mezzo. Perfetta. Saturday in the Park dei Chicago, sabato nel parco, credo che fosse il 4 luglio, dice. Cioè, è fatta apposta per oggi questa canzone. Sabato nel parco, il 4 luglio. Ma quanto ne sa? Questa non l'avrebbe potuta utilizzare. Puoi usare ogni tipo 7 anni, solo di sabato. Ascolta il 4 luglio, solo oggi. Bello, 4 anni che la conoscevo. Probabilmente 4 anni fa l'hai fatta. Più di qua, mica è bisestile, è un anno della settimana. Vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere, Daniele. Collegata. sbagliata. Quando arriva Enrico Pagliarini si parla di tecnologie. Hanno qualcosa a che fare Expo e tecnologie? Beh, ah sì sì, allora io ho già provato, cioè wifi ovunque, bravo, gratuito, funziona, c'è il 4G presente perché qui è pieno di antenne dappertutto, quindi tutti gli operatori hanno messo antenne ovunque, quindi sulla connettività non c'è dubbio, quindi Giacomo, questa prova, vediamo, questa è una buona cosa. Poi devo dire che tutti i padiglioni hanno fatto qualcosa sfruttando la tecnologia, chi più chi meno. Allora, prima ho fatto un giro al padiglione della Germania, c'è una fila molto lunga, non so quanto tempo d'attesa, ma sicuramente una buona mezz'ora. Infatti. Ah, a proposito di file, sì, dicevate prima, ho visto che ci sono dei giocolieri che intrattengono le persone durante la fila, quindi come uno, i semafori. C'è un caldo pazzesco, però almeno uno si diverte anche. E la Germania, io non ho ancora visto, ma mi hanno raccontato persone che sono andate. Al SID si chiama. Sì, hanno insomma, si sono espressi da tedeschi. Sono tedeschi, hanno utilizzato un cartoncino, quindi tecnologia zero, su cui però viene proiettata un'immagine con dei sistemi particolarmente evoluti. Tu sposti il tuo cartoncino e il sistema di proiezione insegue il cartoncino. E succede una cosa bellissima, che i bambini lo sanno fare subito, esatto, e i genitori grandi, invece che rimangono, sì, un attimo. Mi tocca dire che anche nel padiglione della Santa Sede c'è un tavolo interattivo fantastico che, sì, i bambini capiscono subito come funziona e gli adulti ogni tanto. Sapete, a proposito di quello che state dicendo, allora alla presentazione della nuova Alfa, sì, un ingegnere dell'Alfa Romeo ha detto: abbiamo messo delle tecnologie che anche gli adulti sono in grado di utilizzare. Non so, persino gli adulti sono in grado di utilizzare, perché effettivamente i bambini fanno tutto molto velocemente. Ma c'è qualcosa che manca di tecnologico? Dai, spruculiamo viraghi. Ah, non so. Allora, sì, visto che mi sollecitate su questo, allora esiste l'app, si fanno molte cose, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Mi aspettavo qualcosa in più dall'app, tipo ad esempio, mentre io e Marta arrivavamo, cercavamo la strada, camminavamo. Sì, stavamo arrivando dalla redazione, sì, senza tacchi. Allora io ho cercato Cibus, il padiglione dove noi siamo, e mi aspettavo che ci fosse la mappa che ti insegnasse, che ti guidasse. Prendiamo nota. C'è, vero, però non c'è, sì, non è così intuitivo. Sì. La cosa divertente è che ci sono tantissime app in realtà, cioè c'è l'app ufficiale. È vero, però loro mi hanno detto: non c'è dubbio, dimmi qualcosa che non funziona. Non c'è, allora, bisogna fare un po' anche. Effettivamente nell'app c'è una lista di altre applicazioni che servono a Expo. Me ne sono segnata una in particolare. Mi ha colpito il fatto che ci siano 6.000 e passa ricette, perché c'è World Recipes. È così. Che è la lista di ricette. Se uno è curioso e non si limita alle ricette italiane più note, ma che immagino che qui tra le 6.000 ce ne siano molte italiane, e si possa scegliere anche qualcosa di poco noto. A proposito di ricette, dicono che però si spende troppo per mangiare Expo. Una delle critiche, principali, no? Ma sì, secondo me va risposto che Expo è una città, e in tutte le città c'è un bel po' di varietà, quindi troviamo lo street food, che è super presente e assaltato, troviamo i ristoranti più in centro, sapete che in Expo tutto è sul decumano e poi tutto ciò che è intorno al decumano è meno in centro, e i ristoranti più lontani dal centro, e poi ci sono quasi in ogni padiglione il ristorante VIP, come nel caso del Giappone, il famoso scontrino da 110 euro del ristorante VIP del Giappone, di Kyoto del 1700, e poi ci sono invece i ristoranti più popolari, c'è il famoso cinese che con 8-9 euro ti... Quindi il consiglio tuo è cercare, per esempio, nelle strade, magari non troppo al centro, assolutamente, del cardo, lo street food oppure il ristorante. Guardate che in Expo c'è un segnale molto chiaro: andate a cercare l'acqua, cioè le famose via d'acqua, bellissima. Certo, quando l'acqua gratis è una cosa, certo, ma poi c'è anche proprio un canale che va tutto intorno a Expo. Quando lo vedete vuol dire che Expo è finito. E sì, vicino, esatto, tornate indietro. È così, è vicino, è vicino, esatto, a questo fiume. Ci sono dei fantastici street food molto economici. Bello. Questo non lo sapevamo. La cosa dell'acqua è carina, anche perché, diciamolo, no? Vabbè, l'acqua gratis, vai lì con la bottiglia. Le case dell'acqua, certo. Però quelle case dell'acqua andranno in città e nelle province di Milano. Anche a Vimercate, probabilmente. È così, sì, a Vimercate ne mettiamo due. A Vimercate, ragazzi. Una per Marta e una per Cagnola. Enrico, parlavamo di app prima che stessero qua a prendermi in giro. Allora, una cosa interessante. Oggi vi invito a pensare a le applicazioni che servono a visitare luoghi. Lui ha citato il fatto che Expo può essere paragonabile ad una città. L'unica cosa che non si fa è si dorme. Non vivi, qui, non dormi. Però allora, ormai con le applicazioni si visita Expo, con l'ausilio dell'applicazione, e molte città. ci sono le app specializzate, sì, perché se io ho bisogno di una mappa uso l'app delle mappe, se devo, ad esempio, io sono venuto qui comprando il biglietto della metropolitana, una novità, cioè, sull'applicazione, certo, dell'ATM, che è la società dei trasporti, ho messo il mio telefonino davanti al tornello e sono passato così. Quindi ci sono tutte le app specializzate, però ci sono anche delle app che tentano di darti un sacco di informazioni per le città. Non so se conoscete Around Me, che è un'applicazione fatta da un italiano molto bravo, che qualche anno fa ha creato questa applicazione semplicissima. Mm-hmm. Lui prende informazioni che sono disponibili su internet, ti geolocalizza e ti dice: vuoi una farmacia? Io ti dico around you, quindi sì, attorno a te, dov'è la farmacia più vicina, e si fa tutto per hotel, ristoranti, bla bla bla. Però vi vorrei invitare questa sera a pensare alle applicazioni che fanno queste cose in maniera automatica, con gli algoritmi, con la geolocalizzazione, bla bla bla. Ma ultimamente sto notando, non so se è una moda o una presa di coscienza, che gli uomini sono ancora più bravi, non so per quanto tempo, ma ancora oggi più bravi delle macchine. Allora, ci sono alcune applicazioni che hanno abbandonato, non completamente, in alcuni casi non completamente, la sola scelta dei luoghi, di consigli basati sugli algoritmi, sulla tecnologia pura. Noi abbiamo fatto un'intervista a Federico Bolondi, che ha appena lanciato un'applicazione che si chiama Fan City, che ti consiglia dove andare a cena, quale monumento vedere in una città. Per il momento solo a Milano, però c'è un lavoro editoriale attorno. C'è un lavoro editoriale. Se pensate, poi sentiamo anche questa intervista, ma se pensate, questa settimana è stata lanciata Apple Music. Sì. Allora, Apple ha insistito molto sul fatto che buona parte delle playlist sono fatte da umani e non da algoritmi, e Apple dice: secondo noi questo ha un ancora oggi un valore aggiunto. Io dico sempre che è uno dei successi di Expo, che l'offline oggi è la nuova cosa di tendenza, secondo me, e quindi per quello l'Expo ha ancora un senso nonostante esistano tutti questi trabicoli, perché poi trovarsi fisicamente insieme è cool. Sì, questo penso che rimarrà sempre così, però sui suggerimenti io penso che ad un certo punto le macchine vinceranno, se le macchine ci riescono a conoscere bene, come ormai accade. Però devo dire che ancora oggi in alcuni momenti faticano a indovinare esattamente, poi la storia che raccontiamo, io chiedo il film a Marta. Sì, perché io consiglio il film per preciso per Pagliarini. Sì, sì, proprio preciso. Ah, quello personalizza proprio. Sì, faccio. Sì. No, quello non andare a vederlo perché ti fa schifo. Sì, e sì, la sostituiamo con una macchina, lei. Poi devo anche dire che io tanto vado a vedere film che probabilmente in base a questa ricetta potrebbe non piacermi, invece poi mi piace. E allora cosa fa? Mi viene a dire: mi è piaciuto anche quello, allora io cambio il mio algoritmo. Cambia l'algoritmo, capito? Però stavi parlando di un'app che mi ha molto incuriosito. Sentiamo Federico Bolondi che ci racconta questa app che si chiama Fan City. Fan City è un'applicazione che, grazie a un team di esperti, consente di trovare i 300 posti ritenuti più interessanti a Milano intorno a dove si trova l'utente. I posti sono catalogati in 4 categorie, sono food and drink, nightlife, arte e cultura, e shopping e benessere. Quindi uno viene geolocalizzato e l'applicazione suggerisce dei luoghi dove andare, dove mangiare, dove passare il tempo. Esatto, ogni luogo ha una sua scheda dove c'è una descrizione, ci sono dei suggerimenti perché i luoghi sono stati tutti provati, c'è la possibilità gratuitamente di telefonare ad esempio per vedere se riservare un tavolo ad esempio nei ristoranti, c'è la possibilità di prenotare con l'applicazione quando i posti sono chiusi, e c'è anche la possibilità da poco, registrandosi con Facebook, di dare una propria valutazione da condividere con i propri amici sul posto. Ci sono altre applicazioni del genere che sfruttano i commenti degli utenti, tanti commenti che poi influenzano anche le classifiche e i suggerimenti. Nel vostro caso avete scelto invece di utilizzare una redazione, cioè siete voi che date i giudizi. Sì, esatto, l'idea è quella di raggruppare persone esperte nei vari settori, possono essere giornalisti, possono essere blogger, possono essere critici d'arte, possono essere personal shopper, e identificare proprio i posti migliori, che vanno dai posti di lusso, ma anche quelle chicche molto particolari, che magari il turista o chi non vive proprio intensamente la città magari non conosce. Questa è un'applicazione gratuita e tra l'altro funziona anche senza una registrazione. Sì, esatto, l'utente può usarla, è sempre gratuita, non c'è nulla a pagamento per l'utente, l'utente può utilizzarla al 100% senza registrarsi. E voi come guadagnate da questa applicazione? Noi vendiamo i servizi ai posti che vengono catalogati nell'applicazione. Eccola qua Enrico, avevi un'altra app da consigliarci, però poi rimani con noi fino alla fine di questo speciale. Sì, allora consiglio tra le varie app che si possono utilizzare per visitare una città, oltre al conosciutissimo TripAdvisor, ci sono due competitor molto interessanti. Uno è Yelp, che in Italia non è famosissimo come negli Stati Uniti, ma sta crescendo molto, è scritto con la Y, Yelp, e anche Zomato, che si sta espandendo molto e ha redazioni di tutti i ristoranti di Expo sono su Zomato. Vedi, hanno fatto questo lavoro. Bravi, molto bravi. Zomato. E poi c'è un'ultima che è creata da una startup di italiani che è fatta soprattutto per gli stranieri, però con un buon principio. Si chiama 1000 Italy, ok? Per dire che l'Italia è immensa, ci sono tantissime sfaccettature e si basa su gli ambasciatori. Uno può diventare ambasciatore di 1000 Italy e dare suggerimenti, addirittura puoi mettersi in contatto anche col turista che vuole. Si potrebbe parlare un'ora di 1000 Italy, perché è una bella idea, però una specie uno di poi giunto. Se la prova può scaricarla sullo smartphone. Tutti quelli che sono in viaggio in questo momento per andare da qualche parte saranno lì a provare sta arrivando a lanciare il traffico. Sì, esatto. Come sono prevedibile, vabbè, perché hai guardato l'ora, Daniele. Ma figurati, da quando io guardo l'ora? Ti faccio sempre sforare, sgridare, mamma fare cose mia, veramente indisciplinato. Il traffico ormai è il traffico del card e del decumano per tutti quelli che si stanno muovendo verso Expo, ma non solo. Ma lanciate sto traffico, però non è che dai, se c'è quel momento del traffico, ci ritroviamo tra poco. Il sabato del villaggio. Eccoci qua con l'ultimo spicchietto di questo sabato del villaggio speciale in diretta da Cibus Italia, Federa Alimentare Expo Milano 2015. Che peccato, tutte come è passato veloce. È passato abbastanza veloce perché sì. Ci siamo divertiti. Poi adesso assai. Non fa più caldo come prima. Ma infatti siamo l'ora del tramonto, compagnia, sì, perché loro perché sono più al sole. Sì, c'è ancora Giacomo, mira che c'è Enrico Pagliarini che ciao. Si sta cuocendo. Loro hanno la schiena al sole. Noi stavo dicendo infatti che sì, fa meno caldo, non lo so, però ragazzi devo riportarvi all'ordine perché dai. Devo fare un invito intanto ai miei amici camionisti, perché i miei amici camionisti che mi ascoltano, sì. I miei preferiti, allora amici camionisti, ve l'ho detto anche la scorsa settimana, Radio 24 è media partner del Festival Internazionale di Fotografia in Viaggio Cortona on the Move e partecipa al contest TIR, che significa Track in Reportage, dedicato ai viaggiatori per eccellenza, appunto i miei amici camionisti. Dovete raccontare l'Italia vista dalla cabina o dal finestrino. Che cosa dovete fare? Avete tempo fino al 10 luglio per postare su Instagram e Facebook le vostre fotografie dalla cabina o dal finestrino utilizzando l'hashtag di riferimento cancelletto tracking reportage e cancelletto tiri inarrestabili e inserendo all'interno della descrizione Radio 24. I migliori scatti saranno in mostra al Festival Internazionale di Fotografia Cortona on the Move, che aprirà il prossimo 16 luglio. C'è anche un sito cortonaonthemove.com. amici camionisti, in apnea l'hai detto, sì, mamma mia, ho respirato prima una foto di Expo passando l'autostrada. Ah, beh, vedi, beh, ideona ce l'abbiamo io ideona. Fotograferei le macchine che mangiano l'asfalto prima di riasfaltare. Ah, belle. Hai lanciato un'idea. Allora, si parla tanto di Expo sui social. Sui social. Se ne parla bene, se ne parla male. Ti ricordi, Daniele, che avevamo fatto un po' di tempo fa il punto con Reputation Manager, che è questa società che analizza sì, i tweet. E nei primi mesi dell'anno non era andato proprio bene, Giacomo, era perché così. C'era la cronaca giudiziaria, e qualche ritardo. Come sta andando questo sentiment, come si suol dire su Twitter. L'abbiamo chiesto sempre ad Andrea Barchesi di Reputation Manager, che ci ha detto così. La situazione in realtà dal punto di vista volumetrico è sempre interessante, perché i tweet sono molto elevati e siamo circa 104.221 utenti su Facebook abbiamo 1.700.000 utenti che seguono le pagine ufficiali. Noi siamo in crescita dell'8%. e il sentiment è positivo, quindi stiamo considerando rispetto alle analisi precedenti un altro incremento, per cui stiamo cambiando opinione sull'Expo. Il sentiment positivo è assolutamente molto importante perché diventa autoinfluenzante, ovvero quindi non stiamo semplicemente esprimendo un'opinione, stiamo condizionando l'opinione di tutti gli altri che leggeranno il nostro giudizio, quindi è come una sorta di circolo virtuoso, una buona opinione. Ancora una volta i padiglioni confermano proprio l'idea del luogo, quindi l'Expo è come una somma di luoghi, una somma di nazioni, una somma di idee, e cubano ancora il 60,9% delle conversazioni, per cui diciamo che grazie anche alla spettacolarità delle attrazioni giocano proprio un ruolo principale in questa forma di evento. Purtroppo si parla ancora male dello stato di avanzamento dei lavori che non sono ancora terminati, con ancora una volta Sgarbi che sentenzia orrore da questo punto di vista. Quindi viene definito, diciamo, con negatività lo stato ancora di incompletezza su cui versa, però rappresentano sempre dei temi di contorno, non sono più principali come all'inizio. Ovviamente altre cose sono molto negative, i prezzi proibitivi delle aree ristoro. Questa è una cosa che invece si sta rilevando con costanza. Allora, ancora, lo diciamo sempre, di solito alla gente piace twittare le critiche, e si sa, Giacomo, tu lo sai benissimo. Ma in realtà, ultimamente confermo, prima ero da solo, con pochi, a dichiararmi ex ottimista, o a dire venite, vedete, vedrete che ce la facciamo. Adesso, quando si palesa qualche critica, e magari rispondo nel dettaglio, vengo circondato da sconosciuti, che non conosco, però online, che confermano, sì, in effetti è così, e c'è questo gruppo sempre su Facebook, anche su Twitter, alcuni account che proprio lavorano verso questo spin positivo. Il 75% degli italiani sui social si dichiarano in questo momento Expo ottimisti, secondo alcune indagini. Giacomo, però io l'altra sera ero, morivo dalla voglia, lo sai che devo dirti questa cosa qua, sì. L'altra sera ero in un ristorante a Milano, vicino Corso Buenos Aires, a parte che il ristorante era vuoto, e ti assicuro però che era buonissimo. Il ristoratore molto simpatico mi ha detto: ma io avevo anche un po' investito, ma questa Expo a Milano, in città, non è che abbia portato questo incremento? È stato confuso con un evento business, come la fiera. I ristoratori sono abituati al salone del mobile. Il salone del mobile è una fiera dalle 10 alle 18, e poi la parte leisure, divertimento, è in città la sera. Invece Expo è un attrattore turistico per famiglie, e quindi io lo chiamo effetto elastico, che questi soggetti imprenditori tengano un po' i propri sentimenti pronti per un 2016 da paura. È l'elastico. Quando Expo si spegnerà, cioè, dici, l'eredità di Expo sarà, la città sarà cambiare, ed è già successo, la percezione di Milano come destinazione turistica, e questo ha un effetto soprattutto quando poi Expo si spegne. Quindi abbiate 3 mesi e 2 settimane di pazienza. Una visione ottimista, sicuramente, però un'analisi che può essere. Sono molto arrabbiati, abbiamo visto anche l'apertura serale. Non è facile fare le previsioni, però devo dire che io percepisco un po' anche girando. Pensate, ho origliato ad una chiacchierata di due persone sull'aeroplano che stavano andando, io stavo volando in Europa, loro stavano andando in una località per poi volare in Brasile. Sì. Due italiani che vivono in Brasile di età diverse, un quarantenne e un signore che avrà avuto 70 anni, e parlavano di Milano con un entusiasmo incredibile, dicendo: abbiamo visto questa città cambiata negli ultimi anni in modo molto pesante. Basta Expo, Milano ottimisti. Quindi io penso che sia un po' vero questo, penso che abbia ragione. Beh, molte cose sono successe effettivamente a Milano in questo periodo, la DAS. Io non sono milanese, che se lo dico io. No, ma poi infatti sì. Il caso tipico, visto che noi parliamo di social, la Darsena, una roba nata più o meno così, in modo spontaneo, è diventato un evento quasi incontrollato, quindi sicuramente ci sono anche cose che vanno in senso contrario. Forse si poteva pensare, infatti io prima elogiavo i padiglioni che hanno inventato anche eventi in città, poi c'è Expo in città, certo. Tu Giacomo conosci benissimo. Certo. Venite a Milano e venite a visitare Radio 24. E alla Capotondi di prima, non c'è. Citava il Corriere, ma è andata a visitare il Corriere. volentieri gli abbiamo venire, detto vieni a visitare anche Renzo Piano, voglio dire, molto più bello. E c'è Pagliarini soprattutto, che io e Pagliarini siamo lì ad aspettare Cristiana Capotondo. Ah certo, beh certo, vabbè ragazzi, sì, vi riporto all'ordine perché abbiamo ancora due minuti e mezzo. Voglio sapere da Giacomo qual è la cosa più buona che hai mangiato. L'insalata di datteri del Bahrain è la cosa che ti ha stupito di più, sì. Poco conosciuta. Poi qua abbiamo Pagliarini che è molto giustamente per la cucina italiana, ci sta, pro parmigiano, ci sta. Cibus c'è in Italia. Senta, ci sono delle forme di formaggio, può venire qui e mangia il parmigiano, diciamo, la cosa che proprio non ci si può perdere, se vieni a Expo quella cosa lì la devi fare. Ma secondo me magari oggi al tramonto, perché poi sennò fa troppo caldo, però pochissimi salgono sull'unica rilievo collina che c'è in Expo, che si chiama Collina Mediterranea, qua alle certo, nostre spalle. In fondo. Nessuno sale, e cosa succede? Si ha, in questa metafora tra Milano e Expo di cui si diceva prima, alle nostre spalle, a 100 metri, lo skyline di Milano. Il nuovo skyline di Milano. E di fronte, sotto di noi, Expo, e stasera un tramonto eccezionale sul Monte Rosa. Ah, vabbè, ragazzi, chiudiamo con questa poesia. Enrico è già là. Tutti sulla collina mediterranea. Ragazzi, corriamo alla collina mediterranea perché manca un minuto. Dobbiamo chiudere. Io devo ringraziare Giacomo Biraghi, chiocciola Secolo Urbano, che è stato con noi. Grazie per essere stato con noi. E tutti i segreti di Expo. Enrico Pagliarini, che abbiamo rapito dalla redazione, gli abbiamo fatto anche fare Barack Obama ed è stato, ed è stato con noi anche questo speciale. Daniele, ti è piaciuto fare due ore di diretta? Ma ci vediamo, mi sa che ci rivediamo. Ci rivediamo, anche prossima settimana abbiamo il nostro Radio Tube. Tra poco c'è ancora una diretta d'Expo con Leonardo Manera. Bello Leonardo Manera. Di solito è lui che dà la linea a me col Sabato del Villaggio, questa volta ricambio il favore. Ciao Leonardo, a tra poco. Noi vi salutiamo e diamo la linea al GR e noi ci ritroviamo settimana prossima con Radio Tube.